vetrine illuminate, i grandi piccoli si fermano a guardare, le belle bamboline modellate che ci sorridono e sembrano aspettare. Aspettano due braccia che facciano da culo per far la ninna mamma e per sognare. Bambole meravigliose, bambole che i bimbi fan sognare, capaci di parlare, di dir papà e mamma. Come angeli che dal cielo sembrano scendere a vivere per l'altrui felicità. Bambole, sono soltanto bambole che non potranno mai sentirsi palpitare l'amore in fondo all'anima. Se in un angolo finirà, chi mai piangere le sentirà? Sono angeli che nel cielo mai non vivrà. Potranno mai sentirsi palpitare l'amore in fondo all'anima. Nel destin che non ha domani, più nessuno le ricorderà. Sono angeli che già mai il ciel vedrà. Bambole.